Got a slick chick, she a neat chick, the she's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click a slick chick, yeah, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the very first time. Yeah, yeah, yeah, yeah. Man, oh man, what a sight. Yeah, yeah, yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah, yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah, yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah, yeah, yeah. She's my clickety click a stitch. Yeah, yeah, yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine, I said, oh, I got a stick chick, she's a neat chick, but she bought make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click a stick chick, yeah, yeah, yeah, don't yeah, you yeah know she's a stick, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, I stick yeah, a chick, yeah, yeah, ah, yeah. Chick, yeah, yeah, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click a stick chick, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah little chick, yeah, yeah. I don't yeah, yeah you know she's slick, yeah, yeah. Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Slick Chick. Che giorno è oggi? Il 9, mercoledì 9, no, martedì. Ormai io niente, sono fissata che Slick Chick è di mercoledì come l'anno scorso e sono rimasta lì, sono sempre ferma al mercoledì. Invece no, è martedì oggi e come tutti i martedì o quasi va in onda Slick Chick intorno alle 8. Oggi sono in ritardo, ma d'altra parte ormai siete abituati. E puntata di oggi di Slick Chick dedicata alle cover. Chi ci ascolta da un po' ormai mi hanno fatto notare che sono quasi 3 anni, eh? Cioè 2 anni e mezzo, io ero indietro, ma invece no, qua il tempo passa. Insomma, i più affezionati e le più affezionate si ricorderanno che Slick Chick ha già dedicato una puntata alle cover. E questa è la seconda parte, perché in effetti ve l'avevo già detto a suo tempo, è impossibile sintetizzare un po' tutto in un'unica puntata, almeno io non ce l'ho fatta, ci sono tantissime cover interessanti da farvi ascoltare e quindi mi sono presa la libertà di allungarmi, come dire, di estendermi un po', e quindi ecco una seconda parte. La musica è tantissima stasera, quindi non parlerò moltissimo, darò spazio molto alla musica invece che alle mie parole. E prima però vi ricordo i social Wombat, appunto, di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, il sito dal quale ci potete ascoltare, probabilmente già lo fate. 13:59 AM la frequenza, sempre grazie alla quale potete ascoltarci, frequenza in onde mediocri o medie, se volete, se siete così fortunelli e fortunelle di essere raggiunti dal nostro segnale. Poi vi ricordo anche la casella di posta, posta wombat@insiberia.net, insomma avete un po' tutto quello che vi serve per poterci contattare e dirci anche magari quel che ne pensate di queste trasmissioni che facciamo, della nostra radio, che vi ricordo essere una radio assolutamente libera da padroni e ingerenze di alcun tipo, radio autogestita, senza finanziamenti, autogestita, autofinanziata e quant'altro. Suonava un po' come una scusa, ma no, non è vero, è proprio per questo che noi siamo ancora più fighi, proprio perché siamo autogestiti. Allora, iniziamo subito, iniziamo con Richard Cheese, che non so perché inspiegabilmente non ve l'ho messo già nella prima puntata dedicata alle cover, e quindi colmo subito questa lacuna. Richard Cheese and Lounge Against the Machine è il vero nome per intero, perché Richard Cheese è, diciamo, il capobanda, ma c'è anche giustamente tutta una schiera di musicisti con lui, in particolare Richard Cheese alias Mark Jonathan Davis è la voce, lo sentirete, Bobby Ricotta è il piano, è Frank Feta è il percussionista, batterista insomma, e Billy Blue il bassista. Quindi cosa fanno? Fanno, riadattano, ecco, una serie di canzoni, musiche strafamose, prendendole da ogni dove, dal pop al punk, la musica da film, qualsiasi cosa, e la rifanno in chiave lounge, swing, piano bar, diciamo, la rileggono un po' così. Quindi tutto diventa un po' frivolo e lo sentirete, insomma, ma in questa frivolezza c'è anche qualcosa di stridente, come dire. Ma insomma, Richard Cheese and Lounge Against the Machine sono attivi dal 2000 e questa è la loro Holiday in Cambogia. Back east your type don't crawl. Play ethnic-y jazz to parade your snaz on your five-grand stereo, bragging that you know how the niggers feel cold and the slums got so much soul. It's time to taste what you most fear. Right guard will not help you here. In Cambodia, it's tough there, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Thank you. It's another Irish band, the Dead Kennedys. Punk ain't no religious cult. Punk means thinking for yourself. You ain't hardcore when you spike your hair, when a jock still lives in there. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. Came to fight, get out of here. You ain't no better than the bouncers. We ain't trying to be the police. When you ain't the cops, it ain't anarchy. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. Jump on, what a man. You fight each other, the police state wins. Stab our back when you trash our halls. And go trash a bank and think you got balls. You still think swastikas are cool. The real Nazis run your schools. Coaches, businessmen, and cops, and a real fourth threat could be the first they'd stop. Nazi puns, Nazi puns, Nazi puns, fuck off. Nazi puns, Nazi puns, Nazi puns, fuck off. Nazi puns, Nazi puns, Nazi puns, fuck off. First to go, first to go, first to go, first to go, first to go. Unless you think Nazi punk, Nazi punk. Quanto spacca questo pezzo! Allora, forse l'avrete riconosciuto. Dai, sì, era sempre Dead Kennedys, perché il ponte, insomma, era facile. Nazi punks, fuck off, nella versione di Eugene Chadbourne, che se non lo conoscevatevelo, perché è meraviglioso, al banjo qui, mi raccomando, perché normalmente... Beh, spesso si accompagna col banjo, ma spesso e volentieri anche forse un po' di più con la chitarra. Ma insomma, al banjo è bellissimo, secondo me. E questa cover è proprio splendida. Veniamo a un altro brano, una cover, e questa forse rischia di essere quasi più famosa dell'originale. Spesso abbiamo detto già nella scorsa puntata dedicata alle cover qui a Slick Chick che le cover a volte sono più belle degli originali e comunque a volte hanno portato al successo una canzone o comunque l'hanno fatta riscoprire, l'hanno riportata in auge, insomma, grande importanza, perché una canzone non è soltanto di chi la scrive o di chi la compone, ma è di chi poi l'ascolta anche, e quindi tra gli ascoltatori c'è anche chi magari ne vuole fare una sua versione, come è giusto che sia, perché la musica è di tutti e tutte, e quindi ognuno se ne riappropria e se la rivede un po' e se la rilegge. E così hanno fatto i Fichissimi. I Fichissimi hanno fatto diverse cover, insomma cover, sì, interpretazioni, dai, di pezzi che non erano originariamente loro, tra cui Let's Begin Again, ovvero per i mortali, per i poveracci, ecco come noi ricominciamo, cover di Adriano Pappalardo, contenuta nel 7 pollici, un mondo fichissimo, album del 1994 dei Fichissimi. Non vi starò a tediare con informazioni sui Fichissimi perché non c'è tempo e comunque già più volte ve li ho passati in scaletta, sempre in versioni peraltro al limite dell'insopportabile da un punto di vista acustico, perché ahimè forse è bene così, ma insomma le registrazioni che ci sono dei Fichissimi sono un po' rozze e difficilmente si accostano alla qualità super figa e sopraffina del digitale a cui siamo abituati. D'altra parte erano gli anni 90, erano il bellissimo mondo delle prime autoproduzioni. Beh, proprio prime no, ma insomma seconde, diciamo, e DIY, do it yourself, le cassettine, i vinili autoprodotti, le coproduzioni fatte dal PASO e dai centri sociali, beh, più che centri sociali, insomma, dalle case occupate, gli squat torinesi e oltre, e quindi insomma la qualità è quel che è. Gli scantinati non suonavano magari benissimo, ma chi se ne frega, è bello così, è bellissimo così. I Fichissimi hanno detto questa cosa, testuale, virgolettato: noi Fichissimi non suoneremo oggi e non suoneremo più. Se del punk ti interessa solo la musica, puoi guardarti MTV, comprarti dischi da rock and folk o da zapping e cacciare fuori 30.000 lire, beata, per il gruppo punk in concerto. Di noi non hai bisogno, anzi, noi non ti vogliamo. I Fichissimi non erano qui per portare il loro messaggio a più persone possibili, non erano qui per intrattenere nessuno, noi non siamo profeti e nemmeno musicisti. Troppi tra voi hanno comprato il nostro disco come un qualunque altro prodotto, senza capire che prodotto non voleva e non doveva essere. C'è stato chi ha venduto la prima stampa del nostro 7 pollici a 20 carte a qualche collezionista. C'è stato chi si è stupito quando gli abbiamo detto che a Rototom, alla Dracma e nelle discoteche alternative non avremmo suonato, anche se l'ingresso sarebbe costato 5.000 come in un posto occupato. Questa sera non vi siete divertiti, non avete consumato i pochi attimi di libertà che avevate come volevate. Avete sprecato il vostro tempo libero e domani torneremo tutti alla nostra vita di merda. Che tristezza, vero? Questo hanno detto i fichissimi ai miei scegliendosi e subissati peraltro dall'incomprensione, direi, e dal fatto che si sono loro malgrado trovati famosissimi tra gente che proprio non capiva di cosa si stava parlando. Ma questa in ogni caso è la loro bellissima Let's Begin Again. E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto in spazio, frenarti le parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di braccio e poi non provare un brivido dentro e correre il mondo di darti di ma penso di tutto, mi sveglio di tutto, però io ti trovo, ti seguo sicuro, non mollo, lo giuro, perché sono nel tutto, perché io ti amo. Ricominciamo, come sei dolce stasera, mi viene la voglia. Ricominciamo, dolce mi ami davvero, mi sembri sincero. Ricominciamo. Cosa vuoi che faccia? Io sarò una roccia, guai a quello che ti tocca. So che tu ami le stelle, gettarti nell'occhio del primo ciclone, non perdi occasione per darti da fare, per farti valere, ma fammi piacere, ti voglio aiutare, tu fammi provare, ancora ti amo. Ricominciamo, come sei dolce stasera, mi viene la voglia. Ricominciamo, so che mi ami davvero, mi sembri sincero. Ricominciamo, io vorrei, vorrei, ricominciamo. Bella. E del rapporto tra autogestione, punk e affini e fama e mondo dei VIP ce ne sarebbe da dire un bel po', tante cose, magari anche partendo da venerdì scorso quando al Next Emerson c'è stato Zero Calcare, che ormai da molti è considerato un VIP e in realtà è uno di noi semplicemente e meravigliosamente. E insomma, vederlo stare 2 ore e mezzo a Kino a fare autografi è comunque una fitta nel cuore che probabilmente chi stava in fila a farsi fare l'autografo non capirà mai. In ogni caso, andiamo avanti perché sennò apro un tombino di rabbia e frustrazione e poi vi tedio per tutta la durata di questa trasmissione e non mi sembra giusto. Andiamo avanti perché anche perché vi ho detto che le cover, ecco, i pezzi musicali da farvi sentire oggi sono moltissimi e prometto, non vi deluderò, è vero, non vi ho detto, vi ho raccontato bugie, vi ho detto la verità, continuiamo subito con gli Shananà. Secondo me i fichissimi sarebbero stati molto contenti di stare in scaletta tra Eugene Chadbourne, che rifà i Dead Kennedys, e gli Shananà. Shananà che un gruppo, forse ve l'ho già proposto una volta, Slick Chick, non ricordo, comunque un gruppo molto molto interessante e sottovalutato assolutamente, soprattutto al tempo, un gruppo che nel pieno degli anni 60, nel pieno degli hippie e la controcultura americana di cui ho sparlato abbondantemente, quindi non aprirò questa di nuovo questa voragine, Ecco, in quella stagione lì, la stagione dell'amore di Woodstock, loro proponevano qualcosa di completamente diverso, ovvero proponevano delle rivisitazioni del rock and roll anni 50 e lo facevano in una maniera teatrale, assolutamente dissacrante e autoironica e ironica. Gli Shananà si presentavano in tanti, perché erano un bel gruppetto, insomma. E così fecero a Woodstock, proprio esattamente nel cuore della bestia, a Woodstock nel 1969, e tra John Baez e Jimi Hendrix, ecco che arrivano questi pazzi vestiti d'oro e in maniera assolutamente queer, androgina. Alcuni erano vestiti da marinaretto, alcuni con luccichini d'oro, e si mettono a cantare queste cover, appunto rock and roll, in alcuni falsetto, lo sentirete riprendendo anche la tradizione doo-wop. E lo fanno ballando con delle coreografie fighissime e assolutamente dissacranti, cosa che la controcultura americana dell'epoca prese malissimo. È molto molto bello, io ve lo consiglio di guardarvi il video di Woodstock, che contiene tutti i vari live. C'è anche il loro, beh, anche se cercate semplicemente questo pezzo che tra poco vi faccio sentire, cercate il video su YouTube del live, trovate il live a Woodstock, ed è molto bello perché nel live si vedono le facce del pubblico, guardatevele perché dicono tutto. Un pubblico assolutamente schifoso e sdegnato, un pubblico fondamentalmente di omofobi, bacchettoni e altro che la rivoluzione sessuale di cui parlavano, altro che i rivoluzionari del domani, fondamentalmente una controcultura estremamente bigotta e anzi, e che quindi prese questa esibizione totalmente teatrale e densa anche però di significati e di provocazioni degli Shananà, la prese insomma tutto ciò malissimo, e non penso che non la capì perfettamente, e proprio per questo non gli piacque assolutamente. Questi sono gli Shananà con Teen Angel, un pezzo lentone, strappalacrime, appunto fatto però in chiave Shananà, bellissima. L'originale è di Mark Deaning del 1960, che la cantava col suo vocione, un po' alla Elvis, insomma erano quegli anni lì in cui c'era una romanticheria a go-go. Ecco qua, si era rovesciata tutta questa romanticheria in chiave dissacrante, in chiave queer, volendo quasi preglam. Tutto ciò live a Woodstock nel 1969. Tra l'altro, questa canzone, l'originale in realtà di Mark Dining, compare anche nel film bellissimo American Graffiti del 1973, giusto per così buttarla lì. Teen angel. That fateful night, the car was stalled upon the railroad track. I pulled you out and we were safe, but you went running back. Can you see me? Are you somewhere up above? And am I still your own true love? What was it you were looking for that took your life that night? They said they found my high school ring clutched in your finger tight. can you hear me? Teen angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still your own true love? Just sweet 16. And now you're gone. They've taken you away. I'll never kiss your lips again. They buried you today. Teen angel, can you hear me? Teen angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still your own true love? Teen angel, answer me, please. Come alive, have a Pukes, The Pukes con Because You're Young, beh, inconfondibile cover degli Coxpotter. L'album delle Pukes è Too Drunk to Pluck, del 2014. The Pukes sono un mucchio di bellissime punk armate di ukulele. Vi consiglio di ascoltarvele, sono molto molto belle. E proseguiamo veloci con Natasha Atlas. Ve ne ho parlato altre volte, padre egiziano, madre britannica, lei ha vissuto nel quartiere arabo di Bruxelles, in Belgio, praticamente sempre, e ha fatto una cover, oltre a moltissima musica, molto bella e contaminata da mille culture e geografie, ha fatto anche questa cover nell'album Mon Kaliba del 2010 di Nick Drake, sì, l'ha fatta Riverman. He knows about the way his river Che vi ho trovato, eh? Cioè che non, proprio non vi potete lamentare, direi. Radio Wombat, Slick Chic, come ogni martedì o quasi, diciamo che sì, all'ora di cena più o meno vi allietiamo con un po' di canzoni provenienti da una parola, un concetto, un qualcosa, insomma, che dà il là per comporre una scaletta. E la scaletta di oggi, se per caso vi siete messi in ascolto soltanto adesso, è dedicata alle cover, la seconda parte delle scalette, cioè del puntatone, diciamo, dedicato alle cover. Proseguiamo con Jeff Buckley, perché Jeff Buckley, con la sua vocina, maledetto, si è cimentato con l'interpretazione di un brano di musica del 600, in particolare un brano di Harry Purcell, tratto da Il Didone ed Enea, l'opera di Purcell, forse la più famosa. E anche questa in particolare è probabilmente l'aria più famosa contenuta dentro l'opera, un'aria generalmente interpretata da un soprano. Qui Jeff Buckley ci si cimenta, devo dire, i puristi sverranno caduti morti in terra, ma secondo me con quella malinconia nella voce lui poteva un po' fa che gli pareva, e così ha fatto live al Mad Dawn Festival a Londra nel 1995, quindi qualità, ma in realtà insomma qualità buona direi, ma insomma è un live con tutti gli errori e le imprecisioni del caso. Ma tornando a Dido's Lament, questo è il nome dell'aria, il lamento di Didone, ovvero l'opera di Dione ed Enea è tratta dall'Eneide di Virgilio, ovviamente, e l'opera al libretto di Nahum Tate. Didone, la regina di Cartagine, città fondata sulla costa settentrionale africana nell'VIII secolo avanti Cristo circa, si trova assieme alla cameriera Belinda, alla quale rivela la propria grande delusione dovuta all'inganno e alla partenza di Enea, il bel guerriero figlio di Afrodite e del mortale Anchise, cugino del re di Troia. Didone, che si era innamorata di Enea, gli dedica i suoi ultimi istanti di vita, abbandonandosi allo spirito della morte. Ricordami, ma dimentica il mio destino. E sicuramente Jeff Buckley sapeva di cosa parlava, anche se forse in anticipo, ecco. More love, more. E dalle stelle alle stalle, come d'altra parte succede spesso, a Slick Chick, beh, dai, non è vero, non cadiamo così in basso, anche perché insomma ci affidiamo a Mick Ronson, storico chitarrista di David Bowie, meraviglioso peraltro chitarrista, si è cimentato con la composizione e anche l'interpretazione di alcuni brani suoi e non suoi, come vedremo. In particolare un album del 1974, quindi pieno periodo di Ziggy Stardust, Slaughter on 3rd Avenue, Mick Ronson appunto in questo album infila anche una canzone cover di Lucio Battisti. Sì, l'ho detto, l'ha fatto. Non è colpa mia, l'ha fatto lui. Peraltro, ovviamente, è colpa anche di Bowie, che ha riadattato il testo e pare, insomma, ci abbia ovviamente messo lo zampino. Comunque, Mick Ronson, grande fan di Battisti, pare, anche la moglie di Mick Ronson, anzi forse più di lui, ha scritto questa versione inglese di Music, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti, trasformandola in questa Music is Lethal. My friend, myself, Bottom's hero, Prince of the Alley. Stumble falling to a winsome table in search of wine. Mulatto hookers, cocaine bookers, troubled husbands, stolen freedoms that only evening unfolds to shine. Through the twisting in of screaming pleasure to wet lips of infant leisure smile, could I grasp but the stars as they bring your night blue? Sable eyes, ebony thighs, she shines forever. Dancer bee, dancing free, she shines for me. So a masked man should mourn the passing of night time, the long metal dirge, we were prisoners no more. Of the poor fallen angels, she will shine on for me. Charming tune, I see the man with marble hands, your smooth pink piranha cradles my swimming head, cracks his glass into my face, I'm thrown away. Tossed a bleeding on the street, speech I'm meant to drag you away. And I curse where I lay, vainly vowing thanks someday. 10,000 engines skid unwheeling, puncture my skin. Bait and taunt me to run back to my rooms. Love that taste of sweet Se vi è sembrato che questa fosse la voce di David Bowie, non siete completamente impazziti. Effettivamente ci assomigliava e in qualche maniera evidentemente ne aveva assorbito un bel po', ma no, era Mick Ronson, era proprio la voce di Mick Ronson in realtà. E il prossimo pezzo qui si parla. Allora, qui si arriva a un momento un po' topico, perché eravamo quasi alla meta cover, cioè alla cover della cover, poi non me la sono sentita e mi sono fermata un gradino sotto, ecco. Parliamo di Gordon Ramsay. Gordon Ramsay sono fondamentalmente una cover band di Carlos Dunga. Ok, se non lo sapevate, adesso lo sapete, eravate anche un po' ignoranti, se non lo sapevate, adesso dovete colmare le vostre lacune e andare a ricercare tutti i brani che hanno fatto i Gordon Ramsay per rendere omaggio ai Carlos Dunga, tra cui anche, tra l'altro, appunto, la cover della cover, perché hanno fatto anche Si incazza, per esempio, cover che Carlos Dunga fecero a loro volta degli 883 e i Gordon Ramsay l'hanno rifatta. Insomma, siamo alla finezza pura. Tra l'altro, Carlos Dunga, io avrei voluto moltissimo infilarli in questa scaletta per farvi sentire... In particolare avrei voluto farvi sentire L'Amour Toujours, comunque altre cover dance pop anni 90 che Carlos Dunga hanno eseguito in pubblico qualche anno fa per i pochi fortunati, ma neanche troppo pochi devo dire, che erano a goderseli, però poi non l'hanno registrati. Purtroppo non hanno registrato questi pezzi e quindi solo i fortunati, appunto, che frequentano gli spazi autogestiti e le situazioni di questo tipo, gli spazi liberati, possono godere di tanta meraviglia e voi altri poveracci no, e quindi dovete drizzare le vombatte orecchie e esserci al momento giusto, perché poi vi perdete queste perle. Quindi vi consolo però con Gordon Ramsay, e non me ne sono sentita di fare la cover nella cover, la meta cover, ma vi faccio invece ascoltare Patate in forno. Patate in forno, c'è della genialità, devo dire. Nella Wombat Caverna, vi annuncio, ci sono le zanzare, sono arrivate le zanzare, sappiatelo, quindi è iniziato il periodo terribile. Allora, proseguiamo con Il Galeone, pezzo strafamoso di cui ora vi racconterò qualcosa, interpretato dai Ronin. Forse l'avete già sentito, insomma, una canzone, anche la loro interpretazione è abbastanza nota, tratta dall'album Lemming del 2007. La voce che sentirete è quella della cantante americana Amy Denio e il videoclip che accompagna questo brano è opera di Erika Alcane, bellissimo video, fra l'altro, ve lo consiglio. Io invece, per raccontarvi velocemente, perché purtroppo non ho molto tempo, del Galeone e soprattutto del suo autore, mi avvalgo di antiwarsongs.org, miniera importantissima e fondamentalissima da cui Slick Chick trae molto, a cui dobbiamo molto, insomma, che vi consiglio di andare a spulciare perché ci sono molte cose interessanti. Allora, canzone originaria del 1967, Il Galeone, è una poesia che Belgrado Pedrini, anarchico carrarese, scrisse in galera a Fossombrone nel 1967. Il titolo originale della poesia era Schiavi. Poi dopo fu messa in musica da Paola Nicolazzi sulla base di una canzone popolare intitolata, in maniera abbastanza paradossale, Se tu ti fai monaca. Ma fin qui più o meno ci siamo, insomma. Magari quello che si sa un po' meno era la storia di Belgrado Pedrini, che aveva iniziato la resistenza, era entrato nella resistenza ben prima dell'8 settembre. Dice Anti-War Songs, era la sua una vita di resistenza da sempre. Durante il fascismo conduce la sua lotta clandestina e poi già nel 1942 partecipa ad azioni di lotta. Si unisce poi alla formazione partigiana anarchica Elio. Nel 1942, sempre per poter continuare la lotta, lui e i suoi compagni sottraggono ad alcuni industriali fascisti milanesi e carraresi un bel po' delle loro ricchezze. Nel 1949 il Tribunale di Livorno giudica tali atti come reati comuni e condanna Belgrado Pedrini a 30 anni di carcere. Questa è la ricompensa. Ecco, direi che è abbastanza emblematico di molte cose. Nel 1974 il presidente Leone gli concede la grazia, ma appena uscito viene rinchiuso di nuovo in una casa di lavoro a Pisa, tra l'altro, vabbè, non facciamo battute facili, di dubbio gusto, perché deve scontare ancora 3 anni per tentata evasione. Liberato finalmente dopo un'intensa campagna per la sua scarcerazione, torna a Carrara, dove partecipa all'attività degli anarchici locali. Muore nel 1979 all'età di 66 anni. E per Belgrado Pedrini, dice Anti-War Songs, non c'è stata mai nessuna liberazione da una vita intera passata in galera, quella del fascismo e quella dello Stato democratico. Questa è la sua, e non solo sua, direi, Galeone. Nostra aurora e sulla torre sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Dorme di schiavi adusti, chi ne ha gemer su remo, speziam queste catene, o chi ne ha remar morremo. Dopo aver fatto lasciare cadere in qualche maniera questa bellissima versione del Galeone, arriviamo a un altro gruppo a cui io sono affezionatissima e che mi mancano veramente tanto. Anche loro ormai basta, si sono sciolti, quel che è stato, bando a rimpianti. Però a me mi mancano un sacco, sono i Titor con la loro bellissima versione di Motocross di Ivan Graziani, canzone del 1977 che loro hanno rifatto nel 2012 nel loro album Rock is Back. Guanta giallo di marca giapponese, due pacchi di cambiali ed un paio di stivali di cuoio nero, i due retrovisori, tutto era giusto per togliermi di sfizio. Io mi sentivo forte, io ero il più invidiato e stavo bene, e chi si lamentava avevo che pagare. Ad una festa in piazza, era vaga La rabbia da ingoiare. Questi erano i Vitamin String Quartet. Stavo per saltare a più pari questo brano, invece no, Vitamin String Quartet, Wave on Mutilation, forse l'avete un po' riconosciuta, dai Pixies. I Vitamin String Quartet hanno dedicato interi album tributo a vari musicisti, tra cui Bowie, Sigur Rós, Bob Dylan, Joy Division, Massive Attack, i Pixies per l'appunto, Radiohead, ma anche ad alcuni super super pop come Shawn Mendes, Lady Gaga, Adele, eccetera. E le loro versioni sono appunto, ovviamente lo dice il nome, fatte da un quartetto di archi e molto interessanti secondo me. Ma andando avanti, perché qua il tempo stringe e abbiamo ancora tre brani da ascoltare in questa scaletta. Avete presente Mauro Pelosi? Secondo me no, cioè, non l'avete mai sentito dire. D'altra parte non è che vi si può biasimare, è abbastanza plausibile che non abbiate la più pallida idea di chi sia, d'altra parte neanche io lo sapevo. E invece è un personaggino che andrebbe un po' riascoltato, ecco. Mauro Pelosi inizia il suo cammino tra le strutture dell'industria discografica nel 72 alla Phonogram, però in realtà poi lo vedremo, insomma non gli va molto bene, ecco, cioè. E fondamentalmente il pessimismo e il senso di angoscia che lo contraddistinguono sono annunciati già dai titoli del primo 45 giri, 20 anni di galera. Il lato B invece è suicidio, ecco. Invece il titolo del 33 giri è La stagione per morire, uscito poco dopo, insomma. Ecco, e con tutte queste premesse i miei meravigliosi amici allegrotti, affranti, che come dice il nome, insomma, non è che proprio brillano per, insomma, sono famosi per la presa bene, gli hanno dedicato a Mauro Pelosi una interpretazione di un loro brano, che poi non è vero, si intitola. Secondo me è bellissimo, bellissimo il brano, bellissima l'interpretazione degli affranti, da ascoltare con un certo grado di arguzia. E brano che in realtà avrei potuto tranquillamente mettere anche nella scorsa scaletta, quella dedicata alla famiglia, e invece ve la beccate adesso. Vero. poi non è vero. E finalmente lui. Che mi corre incontro e ha gli occhi che ridono. Yeah. Mamma mia, questa era Tania Tagak insieme a Damian Abram nella loro versione di Run to the Hills degli Iron Maiden. Tania Tagak già altre volte ve l'ho proposta, Slick Chick, una canadese Inuit con un bellissimo throat singing e insomma canti armonici e quant'altro, ecco. Veloci, arriviamo all'ultimo brano di stasera della scaletta, che è del bellissimo Chet Baker, del meraviglioso direi, ed è la sua interpretazione di Almost Blue, di Elvis Costello. Elvis Costello ha scritto questo brano nel 1982 e Chet Baker lo reinterpreta 5 anni dopo, nel 1987. Lo sentirete con una voce ormai appesantita e diventata più grave, ecco, con gli anni e con le peripezie della vita di Chet Baker. In realtà si tratta di citazioni intrecciate, omaggi reciproci. È un ottimo esempio di come la musica appunto non appartenga a un qualcuno, a una sola persona, ma appartenga un po' a tutti. E sì, perché pare che Elvis Costello fu ispirato proprio dopo aver sentito la versione che Chet Baker aveva fatto di un brano che si intitolava The Thrill Is Gone, una canzone del 1931 di Ray Anderson e Low Brown, che aveva reinterpretato nel 54 in un disco. Il suo modo di cantare e di interpretare questa canzone, non sua peraltro appunto, ispirò Costello a creare una musica che in qualche modo ricordasse quel tipo di suoni e quel tipo di atmosfera, quel tipo di mood, ecco. E questo dà vita ad Almost Blue, e quindi poi Chet Baker, non so se consapevole o no di questo, ma insomma in qualche maniera chiude il cerchio reinterpretando Almost Blue e facendone un po' questa versione che secondo me è bellissima, incredibilmente bella. E con questa versione appunto vi do la buonanotte, vi lascio alla continuazione dei programmi del Wombat e vi do anche appuntamento a martedì prossimo sempre con Slick Chick, sempre su Radio Wombat, e quindi a presto, ciao ciao! Thank you. us doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be. Almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now from crying, almost you, almost me, almost.